veramente male e ho messo l'autoagglomerante per non far entrare umidità. Come ti pare il segnale? Normale? Sì, va benissimo, sia dall'aria che il segnale, sono il tuo segnale tuo, per cui non so, magari stiamo usando pochi innervati, sei intorno al 9 qua. Sì, sono i soliti 4 watt più filtro che me ne ruba 1 di watt e siamo lì, dai. Solite condizioni di lavoro. E infatti ho detto, ci esisterà ancora la 27, ci sarà ancora qualche sopravvissuto. Ieri ho pigiato, ma non c'era proprio nulla. Né sul 20, né sul 12, né sul 10, 12, né sul 23. Ho provato ieri sera. Ormai è finito, no? La gente non accende più, difficilmente si fanno sentire. Io adesso ero parecchi giorni senza nemmeno accendere, perché intanto tutte le volte che avevo acceso non c'era mai nessuno, e allora siccome ho anche un po' da fare qui a casa, allora mi sono messo a fare dei lavoretti, per cui ho anche abbandonato un po', diciamo, dai. Ma tutto questo non significa che ho abbandonato definitivamente, anche perché io da voi, tanto il baracchino c'è, non me ne dà fastidio, l'antenna c'è, per cui se c'è gente si parla, se non c'è pazienza non è la fine del mondo. Sì, infatti, peccato magari per gli apparati, per l'investimento sugli apparati, va bene, nel mio caso ne ho tanti, Però vedi, in questo caso è controproducente, perché se ne hai tanti e non vedisci uno, me li sbatto, me li tiro a spalle, come si diceva negli anni 80, mi ricudo ai lipati. Infatti, no, io ho questo, vabbè, adesso ho anche montato qua una KB23, ma non accendo mai praticamente, era solo per averlo come controllo di questo magari, no? Per farmi l'ascolto, che poi tra l'altro questo baracchino il preascolto ce l'ha, per cui non ce ne sarebbe nemmeno bisogno di un altro. Per cui qui nel tavolino io ho due alimentatori, uno è switching e uno è normale, trasformatori normali, tradizionali. Poi come baracchino c'è lo sai, CRC, poi CR6, CRT, anzi no, CRT, anche il nome mi stavo dimenticando, penso un po'. E questo KB23 messo in un angolino così, in caso di necessità per ascoltarmi, posso accendere sia l'uno che l'altro. A proposito di CRT, stavo notando come certe ditte, per esempio nel corso di questi ultimi anni, come la Intec, abbiano chiuso, proprio chiuso, e non solo baracchini, non c'era più nemmeno il sito. E come certe ditte invece, come la CRT, ogni tanto facciano il nuovo modello di baracchino o la nuova versione, e abbia in catalogo un saccaccio di versioni di baracchini, cioè un saccaccio di modelli, ecco. La Intec è quindi defunta da anni, la CRT che è francese perdura, c'ha tante radio, il 6009, 7009, 9009, più anche altri apparati normali, no, di uso CB, magari anche con funzioni particolari, tipo i subtoni o altre cose, dai. La Midland ancora si tiene a galla con i modelli soliti, 48, 48 quello l'altro, insomma ancora si tiene a galla la Midland, dai. Poi c'è la Lafayette, che era della, di chi era la Lafayette? Quella ditta, lo stesso italiana, che non porta più niente, da, non mi viene il nome. Anche lì non trovi più baracchini da Lafayette nuovi, che tanto erano terra a terra comunque. Sì, lo so, ormai è così. Sì, magari fuori ce ne sono tante di CB in attività, ma qui ormai è finito. Qui non siamo capaci di fare niente, non dura niente a Sassari, guarda, è una città veramente, da quel punto di vista, veramente scarsa. Anche perché ci sono certi elementi che fanno pena. Fanno pena solo a sentirli e a pensare le idee che hanno. Per cui, allora ecco che finisce tutto, è normale, no? Non è questione di vita o di morte il baracchino, ce ne può fare anche a meno, perlomeno io posso anche fare a meno, ormai ho parlato per oltre 52 anni al baracchino e per cui posso considerarmi anche soddisfatto per la passione che ho per la radio, eccetera. Poi per il resto, pazienza, se non si può continuare a parlare, smettiamo, non se ne parla più, però ciao, lo lascio piantato, mi sono lato l'antenna, non me ne dà fastidio, anche perché se va al moto dove la metto l'antenna, in un altro angolo dove ho messo la masoba turbo, no, rimane attaccata lì sempre al suo palo e non c'è problema, in caso di voglia di poter sentire se c'è qualcuno è sempre pronto, non c'è problema. Ma comunque mi pare di ricordare la Marcucci importava i prodotti Lafayette in Italia e credo che anche la Marcucci non ci sia più, però quello dico, quello nego, però mi pare di ricordare così, adesso se c'è qualcuno che se lo ricorda si faccia avanti, ma credo che anche quella sia andata. Chi era quello? Natalino era, non si capiva niente. Vediamo, Natalino sei tu. Comunque ci abbiamo parlato in due. E avanti, avanti chi vuole entrare, avanti. Non si capisce niente di quello che dici. Cerca di migliorare la radio. Ma tu senti qualcuno? Sì, sento qualcuno, ma non si capisce niente di quello che dici. Vabbè, migliora la radio, se no non è possibile continuare con te. Se ci buttate in tutto, non ce vuoi fare. Ormai i tempi sono trascorsi, pertanto chi ci è rimasto non lo so se ha la voglia che posso avere io, che puoi avere tu, questo non lo so, ma mi sa che di voglia ne abbiamo poca tutti quanti, perlomeno stando all'evidenza che tutte le volte che accendo non c'è mai nessuno. Sì, qualche deficiente c'è di tanto in tanto che mette la portante, però no, non parla, manda portante e basta, o fischietti eccetera, e beh, balle varie, ma di questo non se ne parla nemmeno, non so per quale motivo, comunque saranno vergognosi. E ho sentito chi è, buttateci tutto avanti. Si spegnete tutto, è stato morta, è morta. Ciao Luca Flipper, saturo, a Giumano non ti riconosco pure. Ho detto a buttarci tutto, che è morta. Ehi, ehi. Tu te lo ricordi se la Marcucci è ancora viva o era chiuso? È per quello che non si trovano più apparati Lafayette? Oh, non lo so, io c'ho Alessia Marcucci a casa. Chi è quell'altro che parla basso, piccolino? Avanti, chi sei? Fatti capire, se no è inutile che continui a cercare di entrare, non si capisce niente di quello che dici. Ma voi lo capite, tu lo capisci Luca quello lì? No, vabbè, ciao. Che strano, io ho lo squelcia zero, ma non sento nessuno. Io già sento qualcuno, però non si capisce niente di radio, proprio pessima radio, per cui il segnale è intorno ai 6-7, ma come radio è meglio non parlarne nemmeno. Infatti sta parlando, ma è come se non fosse parlando, perché a quel punto lì non si capisce niente di quello che dice. Comunque è strano, qua non sento nulla, sento solo il soffio del QRM. E probabilmente più vicino a te, magari qualcuno con qualche portatile, qualche bara mobile un poco, magari da dentro il garage addirittura. Ok, e va bene, e quindi sì, la 27 è ridotta ai minimi termini. Qua, certo, se non avessi un giorno sì e l'altro pure gente in casa, per fare delle manutenzioni, cioè qua troppo niente, o non ci fanno per anni o ci fanno tutte assieme, e siamo passati da un cantiere all'altro, capito? Uno del 110 che è passato e uno in casa, capito? Io sto facendo qui un lavoretto a casa, ma un paio d'ore al giorno, niente di più. In mansarda mi sto facendo una cabina armadio, perché ormai con tutte le cose che abbiamo da mettere, nonostante che abbiamo quattro armadi qua a casa, non è sufficiente per mettere la roba, anche perché non sai, le donne stanno sempre comprando, a un certo punto non si sa più dove mettere. Allora ho deciso, adesso sui mansarda mi faccio una cabina armadio, e la sto facendo, diciamo che sono anche a buon punto, non c'è problema. Giulio, non so se hai mai visto quella pubblicità degli appartamenti o cos'era, che quella vede va a vedere questa casa nuova, no? E c'è l'accompagnatore, come dire, quello che mostra la casa. E dice, quella cos'è? E quello dice, cabina armadio, e quella sviene, da quanto è bella. L'hai vista quella pubblicità? Ok, no, non la ricordo quella pubblicità, ma comunque, sì, sto sfruttando praticamente due pareti, sto sfruttando, e così almeno lì ce ne sta di altrettanto di roba di quanto già ne abbiamo negli altri armadi. Tu pensa che abbiamo un armadio grande 3,10 m per 2,60 di altezza, 2,65, 64, 65, praticamente tutta altezza, da pavimento sino al solaio quasi, senza quasi perché il solaio è 2,60. Poi ne ha due, mia figlia ne ha, ogni armadio è 1,25 m, sempre per tutta l'altezza, che messi insieme, affiancati diventano 2,50 m, diventano per 2,60, 2,65 d'altezza. Poi c'è una scalpiera che è 140, se ricordo bene, 130, 140 di larghezza, è quello lo stesso, dal pavimento fino al solaio, tutta piena di scarpe, le scarpe di mia figlia, eccetera. E dunque sono praticamente quattro armadi. Ah no, ce n'è uno giù, nella tavernetta, che è largo, saranno 3 metri e qualcosa, per un'altezza di 2,40, perché sono praticamente fatto a forma di sottoscala. Insomma, nonostante tutto non abbiamo posto più per mettere roba. E allora ho fatto bene, adesso il tempo non mi manca, la passione ce l'ho ancora per il legno, eccetera. E me lo sto costruendo a casa un po' per volta così. Sono già a ben punto, sto per attaccare gli sfruttilli e metterci e attaccare i cassetti. Ma faccio un paio d'ore al giorno, niente di più. Vai Marco. Sì, anche a casa non basta mai lo spazio, poi certe volte lo spazio è dedicato ai vestiti, per esempio ci metto altre cose, perché non so più dove mettere la roba anch'io. Qui certi armadi li ho sacrificati, armadietti piccoli li ho sacrificati per altre cose, anche radio, roba che magari non uso però ce l'ho, e da qualche parte la devo infilare. Bene, insomma da qua funziona tutto. E quindi Giulio, quel malfunzionamento dell'antenna che mi andavano le stazionarie a manetta, probabilmente era dovuto a quel giunto che c'è qua in terrazzino. Addirittura il PL che ho dovuto tagliare non si riusciva a dissaldare, sembrava che dove c'è il centrale, no, lo stagno del cavo centrale, fosse come cementato, cioè tu col saldatore vedi questa, sembrava una saldatura come biancastra, sembrava cemento, andava a dissaldare e non dissaldava, proprio non riusciva a sciogliere lo stagno. Probabilmente lì c'è andato materiale edile, cemento, quello che è, e aveva creato un blocco unico, ho dovuto tagliarlo e metterne uno nuovo di spinotto. Però questa volta ho messo l'autoagglomerante, in modo da preservare almeno il nuovo spinotto e il nuovo barilotto. L'altro spinotto l'ho disossidato un pochino, che era in migliori condizioni. E quindi l'antenna di per sé sul tetto non dovrebbe avere niente. Sì, a me me l'aveva fatto perché si era ossidato dove si attacca il piede, no? Infatti l'avevo portata giù perché mi erano salite a 3 le stazionarie. Ma cosa è successo? Ho tirato giù l'antenna, l'ho smontata tutta, l'ho controllata per benino, tutto a posto all'interno, tutto a posto. E poi invece ho notato che c'era dove si abitava il piede femmina, quello che ci ha attaccato l'antenna era ossidato al 100%, per cui praticamente non c'era più il contatto della massa, se vogliamo dire così. L'ho pulito bene, l'ho rimontata l'antenna, l'ho pulito quello, tutto a posto. E allora per evitare che arrivi acqua eccetera in quella, nel PL ci ho messo un pezzo 15 cm saranno di tubo da elettricista che arriva fino sotto la piastra metallica della Game Master, e dunque completamente coperta. Prima era coperta dal solito gommino, quello che ci danno in dotazione nell'antenna, ma così invece ho coperto proprio definitivamente, perché Casarraro, il PL è della stessa misura identica del tubo, del tubo da refrigerato, che è il tubo da 22 mi sembra che ho usato. E dunque adesso non può entrare l'acqua, dopo anche quando tocca il traverso il vento non la può trasportare, rimane sempre protetto il PL. E allora va bene così. Io su invece l'avevo stagnato con l'autoagglomerante, come tutte le parti sensibili dell'antenna, infatti sta durando questa antenna di schifo, 10 anni c'è già, quindi non credevo che sarebbe durata fino a tanto, dai. Probabilmente abbiamo fatto un bel lavoro io e Pompone, l'abbiamo isolata bene al PL, ai giunti degli stili, ai giunti alla base e anche sopra la bobina, in modo che non entri nulla. Però è tanto che non la vedo, io vorrei dobbiamo poi salire su e vedere le condizioni dell'antenna in generale, della bobina, se c'è ancora quella plastica che protegge la bobina, perché quella col caldo estremo si rovinerà, si estrae il caldo e il freddo, sai, dell'inverno, dell'estate, moltiplicalo per tanti anni e vedere se quel tubicino in plastica resiste ancora, dai. Ho capito. No, ma stanno vedendo il segnale che hai, è 9 un po', anche un po' più avanti anche del 9, stanno allo limite che ho io qua a Barre, e già funziona bene, si vede l'antenna, sta funzionando benissimo, praticamente il tuo segnale è sempre, dai, con quella potenza lì, per cui va ultimamente bene, non c'è problema. Non c'è problema, comunque, no, nemmeno io non mi sto interessando più di tanto, non so niente, arrivo, controllo qualche volta, così accendo, non c'è nessuno, tac, spengo subito, ma questo lo faccio quando sono in passaggio in questa stanza, ma niente di più, però non mi trattengo, prima mi trattenevo anche in attesa che qualcuno entrasse, adesso niente, accendo, non sento nessuno e spengo completamente subito, all'istante. L'altro giorno c'era uno, quando saranno 4-5 giorni fa, c'era uno che stava giocando con la portante, col bip. Un bip simile a quello che posso avere io con il mio baracchino, all'incirca da quello, come tonalità, là, io non so se fosse preciso, non so se era così, però c'era questo che stava giocando con cosa. Però niente, no, non parlava. Pazienza, sia fatta la loro volontà, cosa vuoi che ti dica? Chi vuole entrare avanti? Non me l'ha perso di aver sentito il segnale pari al tuo, per mezzo secondo hanno premuto la portante. Sì, qua rimaneva acceso quando possibile. E sì, ogni tanto sentivo qualcuno intorno a 9 che premeva e aveva un bip molto basso. Premeva tu, però magari poi chiamavi e non rispondeva. Era solo per attirare l'attenzione e magari fare uscire a pizzo qualcuno che era all'ascolto e magari fare un questionario con qualcuno. Va bene. Infatti è così. Probabilmente così voleva far notare la sua presenza, ma se non parli cosa fai presentare la portante quando poi tu non parli, non ne serve a niente. Ma io vedevo che facevo così, ho preso subito e me ne sono andato su, me ne sono andato a fare il lavoretto che stavo facendo, per cui non mi interessava più di tanto. Prima magari ci stavo anche giornate intere col baracchino acceso in attesa che qualcuno entrasse, ma poi non è entrato mai, fatto, ma chi me lo fa fare? Lo tengo spento, e ci sono stati dei giorni interi, anzi qualche settimana anche intera, che non l'ho nemmeno acceso, anzi non l'ho nemmeno guardato il baracchino, non so di accenderlo, ma non l'ho nemmeno guardato, figurati un po', per cui va bene così. Mi ha telefonato Antonio l'altro giorno, mi ha telefonato che come mai non ero più entrato, se stavo bene, sì, sto bene. fa te, ma io non l'ho accesa, non sono da diversi giorni che non lo accendo, per cui non potevo sentire nessuno, perché tutte le volte che accendevo sembra fatto apposta, non c'è mai nessuno, e allora non c'è proprio più nemmeno, non si sento più nemmeno. E qua certe volte io il baracchino lo lasciavo giorni accesi sul 10, no? Con lo squelce, come monitor, però con volume un po' basso, quindi magari se non ero nella stanza non mi accorgevo se qualcuno chiamava. Però lo lasciavo acceso anche per far lavorare il baracchino, perché se lo tieni spento, anzi dovrei fare il giro a palati dovrei fare, se in questi giorni entra qualcuno posso cambiare apparato una volta al giorno, almeno farli girare, che se no si inchiodano altro che. Vabbè, tu mi andai, invece adesso io ho questo, poi lo cambio 23, sì, ho anche 50-24 toccai, il vecchio toccai, che l'ho messo dentro la scatola e ce l'ho messo in uno scaffale sulla massanda. E poi ne ho un altro, cioè, da stazione base, quello, la cambio, come si chiama, la Cobra 139, ma non mi guardo nemmeno, non uso sempre questo, CRT, 6009, va più che bene, va più che bene, tanto non per stare sempre cambiando, ma che me ne frega. Poi se gli altri si guardano, ammesso che non credo proprio che si guardano, sempre che non si guardano, perché sono condensatori a basso voltaggio. Il problema è quando tu accendi un'apparecchiatura che ha i condensatori, quelli da 220, quelli sì, ma se sono quelli a basso voltaggio non fa niente, anche dopo 20 anni lo puoi riaccendere tranquillamente che non le succede niente, ma sono così le apparecchiature, questo te lo posso garantire, questo a detta anche dei radiotecnici, perché io negli anni passati quando facevo altro lavoro da giovane queste cose me le discutevo anche con il tecnico che mi insegnava e che mi ha insegnato tante altre cose. Dice quando sono di bassissimo voltaggio difficilmente si spaccano i condensatori, si spaccano quelli grandi, quelli dell'alimentazione, quando un'alimentazione è a 220, quelli si spaccano. E infatti dice per alimentarli, per poterli recuperare, non bisogna dargli più i 220 direttamente o 230 come oggi, però bisogna dargli un bassissimo voltaggio, allora si adeguano di nuovo, man mano che passa il tempo gli dai sempre più voltaggio, sino ad aggiungere il classico voltaggio di 220-230 come oggi, capito? Ma questo è quello che mi hanno sempre detto il radiotecnico che lavorava dove lavoravo io prima, tanti anni fa. Sì, avevo sentito una cosa del genere, come quelle vecchie radio a valvole, che c'erano condensatori grandi come bottigliette, no? Bottigliette di bitter, per esempio. Lì se stavano ferme molto dovevi dare un guai a dargli la 220 che magari ti scoppiavano pure i condensatori. L'avevo sentita questa cosa, dovevi applicare un voltaggio minimo, in modo che piano piano si riprendesse il condensatore e poi aumentavi leggermente facendo passare tempo fino a raggiungere lentamente i 220, ma non so quanto lentamente, però era così. Ho sentito o in radio o ho letto da qualche parte. Sì, questi sono condensatorini piccolissimi, poi vabbè, questo ancora c'è i componenti classici, quindi i condensatori sono abbastanza grandi, ma in quegli apparati SMD, no? Hai visto, i condensatori sono ancora più minimali, sono microscopici certi. Sì, ma è così, ma poi lo so, io ho baracchini, ad esempio il 50-24 toccai, ce l'avrò 40 anni, di 40, lei ha detto che 40 ce l'ho, di più di 40, siamo vicino ai 50, eppure tutte le volte che lo accendo funziona benissimo, dopo anni, anni, anni che è stato messo da parte. Lo stesso discorso questo HB23, adesso l'ultima volta che l'ho acceso saranno state 3 anni fa, una cosa del genere. Dunque l'ho acceso l'altro giorno, andava benissimo e funziona benissimo, per cui non c'è problema. Ripeto, chi si spaccano sono i condensatori, che tu quando gli dai l'attenzione totale dell'alimentazione, delle radio ad esempio a valvole, ecco, tanto per capirci, no? Sono quei condensatori grandissimi che sembrano delle bottiglie praticamente, quelli sono soggetti a spaccarsi. Però se tu sei capace, gli dai una piccola alimentazione, quanto hai? Per dire, un trasformatore che suona 50 volte, gli dai 50 volte, poi puoi aumentare sempre, piano piano, man mano che passano i giorni, e lui si rigenera. Si rigenera e funziona tranquillamente, no? Però se tu gli dai il 220 o 230 di colpo, non è escluso che si possa aprire, esce fuori dall'elettrolita e dunque incominciano a rondare, allora incominciano e tutte queste belle cose qua, quel ronzio che tante volte che sentiamo nella radio, è dovuto sempre al condensatore di alimentazione, cioè il filtro di alimentazione, che è quello. Cioè quei condensatori che funzionano intorno ai 220, che poi ti danno anche 400 volt, ti danno. Tanto è vero, se tu li misuri quelli quando sono attaccati, tu hai alimentato a 230, se tu misuri col voltmetro, tu potrai registrare anche 350-400 volt tranquillamente. Chiappa, sento propagazione sotto, magari non fortissima, invece se quando sentivo propagazione maggiore, quando si guastava il tempo e compariva nuvole o comunque c'era un cambiamento sul clima, invece questi giorni di sole continuo, quando siamo sotto la cappa il calore c'è, la propagazione ma è minore, ma il giorno che viene un po' di leggero maltempo sembra che migliori parecchio la ricezione. E come ci sono stati un mese fa, quando era quei giorni di propagazione estrema dove si sentiva l'Italia benissimo, addirittura ho visto uno che mi è arrivato mi pare 9:15-9:20 dall'Italia, stava parlando con Pomponio. Il giorno che l'ho sentito, tant'è che credevo che fosse un continentale, perché l'accento era quello, in barra mobile a Sassari, no? Sai i continentali che vengono in vacanza. E invece era, mi pare da Venezia o un paese vicino Venezia. Era incredibile la propagazione quel giorno. Me l'ero persa perché avevo dormito tutto il pomeriggio e me l'ero persa, dai, e stava calando anzi quando ho acceso io. Ho capito. Però io se non sento qualcuno in italiano quando vado in propagazione, gli altri non mi interessano. Al limite posso ascoltare qualche spagnolo, che bene o male qualche cosa riesco a capire e a farmi capire da lui. Però le altre lingue francesi e balle varie, o tedeschi eccetera, è che le capisce, non mi interessa più di tanto. Sì, c'è propagazione, ma dalla laterale comunque c'è, tutti i santissimi giorni, a tutte le ore, in banda laterale. Io tante volte ho provato e devo dire che vado alla grande. Vado alla grande, in banda laterale, questo baracchino è una meraviglia. Alla prima chiamata ti rispondo tranquillamente, non c'è problema, naturalmente, dandogli la sua potenza, no? Non certo come adesso a 2 watt, dandogli la sua potenza massima, che sono intorno ai 30-35 watt, una cosa del genere. Ma ho avuto modo di chiamare tranquillamente l'altro giorno, sarà un mese e mezzo fa, c'era questo che stava chiamando, sì, c'è qualcuno che mi ascolta, io Pietro, sì, io ti sento anche molto bene. E da lì è incominciato un QSO ed è formata, abbiamo formato una ruota di almeno 10 persone. Infatti mi sono dovuto scrivere tutti i nomi, mi sono dovuto scrivere perché sennò le dimenticavo per rilanciarle, no? Ed erano persone che partivano dall'Alta Italia fino alla Bassa Italia, tranquillamente. Ma abbiamo parlato per oltre un'ora e mezzo, tranquillamente, non c'era problema, Marco. Ma capitano raramente le giornate così, cioè propagazione totale per tutta l'Italia. Sì, sì. Pensa sui 40 metri quando c'è questa propagazione, come piace il segnale, lì è proprio magia. Vabbè, noi siamo praticamente come 10 metri da, come propagazione, onda più corta, quindi poi c'è i cosi, i 40 metri sono un bijou, i 45 anche sarebbero un bijou, se qualcuno avesse l'ardore di utilizzarli ancora. Quelli negli anni passati già li ho utilizzati io, di mattina e quando ero libero facevo altro che accordare con l'accordatore elettrocontenuto che avevo allora al K delle 4.40 e passavo i 45 metri, prima li ascoltavo alle 8, prima delle 8 del mattino, mettevo le cuffie ancora a letto e ascoltavo tutti i radioamatori di fuori della penisola. E poi se ne passavano sui 45 metri, se ne passavano per fare sulle battute scherzose, tipo baracchino praticamente, con quel sistema lì. E allora c'entravo anch'io in 45 metri, ma poi qualcuno ha fatto anche l'imbecille che ha messo delle potenze esagerate in 45 metri e li hanno sgamati e da allora non si è più sentito nessuno in 45 metri. Ma sto parlando di anni fa, ma era una meraviglia, con il 440 e con la Mantova Turbo avevo segnali dall'Alta Italia alla Bassa Italia intorno anche a 9.10, 9.10, mai meno di 9 comunque, in contemporanea, dall'Alta Italia sino alla Bassa Italia, allora non c'era problema. Per cui Marco, era una bella cosa, ma poi, ripeto, qualcuno ha esagerato, l'hanno sgamati, non so, avevo addirittura sentito che qualcuno era stato denunciato perché era una frequenza che non si poteva utilizzare, penso che appartenga all'aeronautica, non lo so, di preciso non lo so, ma suppongo che sia così. Eh sì, quella è una frequenza aeronautica dove operano in LSB, a differenza dei pirati, no, che usano USB, operano in LSB mi pare, o viceversa, no aspetta, i radioamatori, i pirati erano in LSB, allora i servizi erano in USB, vabbè io diciamo dubito che la 6585 fosse proprio coincidente con una frequenza aeronautica magari specifica, non ci credo neanche per niente, però appunto qualcuno forse ha esagerato con il VAT, si è messa l'Ofcom di mezzo, quella inglese, si è lamentato al governo italiano, il governo italiano è stato costretto ad agire. Ecco, mi ricordo che tanto tempo fa avevamo fatto anche una brevissima prova, un brevissimo test in due, ti ricordi? Sì, infatti era così, prima ci si poteva divertire, ascoltare, ad esempio la notte ascoltavo in 88, in 88 metri, ascoltavo la notte, non c'entravo, però ascoltavo in 88 metri, si entrava molto in 88 metri, anche in 45 soprattutto. Era quell'amico che c'era, che abitava ad Alghero, che purtroppo è morto, già da anni è morto, che adesso non mi ricordo nemmeno il nome relativo come era. Però lui frequentava moltissimo anche gli 88 metri. E io la notte passavo lì e ascoltavo. ascoltavo anche 160 metri ascoltavo anche. Poi naturalmente la frequenza principe è sempre la 40 metri, no? Questo non ci sono dubbi. Anche gli 80 metri da notte, però da notte alla sera tardi, soprattutto gli 80 metri, li ascoltavo sempre. Però per dirti, tutto questo lo facevo con la mantova turbo, perché la mantova turbo ti dava quella possibilità di ascoltare anche tutta la KF, così, tutte le frequenze radioamatoriali. Mentre la Game Master, quella è muta, questa quando tu la togli da questa frequenza non hai niente di, non hai più nessun vantaggio. E questa frequenza è ottima, va benissimo, ma in HF radioamatoriale no, che poi HF è anche questo dove siamo noi adesso, no? Anche questa si chiama HF, capito Marco? Però è un'antenna che è sorda per i 40 metri, per gli 80 metri, a differenza invece della mantova turbo che ascoltavo benissimo tutte le frequenze, anche i 160 metri, la notte sempre. Io qualche prova veloce, all'epoca avevo quell'accordatore MFG che poi è scomparso, non so che fine abbia fatto, probabilmente è stato buttato, trovato in qualche busta, scambiato per roba vecchia, buttato, una cosa ridicola, guarda. Quello mi migliorava anche la ricezione, sì, perché io lo attaccavo tra l'apparato e l'antenna, no? All'epoca avevo il Kenwood. Poi col preselettore mettevo la preselezione migliore, no? In modo da avere il massimo segnale, diciamo, di ricezione. Poi come muovevo tune, load o quello che era, trovavo una posizione massima di accordo e riuscivi ad accordare anche con la sola ricezione. Se ti accorgevi che rispetto a non avere, perché l'antenna è per la 27, però accordando con quell'affare riuscivi a guadagnare un Santiago, anche un Santiago e mezzo in più di ricezione, perché trovavi l'accordo massimo e l'antenna era simulata, diciamo, risultava come risonante. Non è che l'antenna era risonante, l'accordatore, diciamo, adattava l'impedenza, allora guadagnavi anche ricezione. Ho provato a fare on off e vedevi che c'era questo aumento del segnale, un Santiago, un 1,5, forse anche 2, ecco. Ok, sì, è possibilissimo, perché magari l'accordatore ti incrementava anche il segnale, ti incrementava, certo, è possibilissimo, non c'è niente da meravigliarsi. Però ripeto, era bello perché con quasi 40 allora negli anni d'oro, no, non adesso è inutile avere un K, cosa te ne fai? È uno spreco madornale, non serve più a niente avere una radio così bella, perché bisogna riconoscerla, è molto bella. Ma non serve a niente, perché non senti nessuno da qui, entrare non ci puoi entrare, puoi fare solo ascolto, puoi fare da quelle di fuori, ma non è che puoi dire beh ascolto la Sardegna, no? C'è un mortorio che non finisce mai anche lì, e non sentivi mai nessuno, qualcuno qualche volta, ma raramente, sto parlando del 40 metri, la domenica soprattutto quando la gente era libera magari qualcuno dalla Sardegna la sentivi, ma durante la settimana era un mortorio. Oggi non lo so com'è, o Marco, suppongo che sia sempre uguale, però so che vanno bene anche i 2 metri, so che funzionano bene i radioamatori, cioè che fanno abbastanza attività, ma questo poi è da vedere, perché qualcuno mi ha detto che anche lì non c'è molta attività, e me l'ha detto un radioamatore, non è che lo sto inventando io, me l'ha detto un radioamatore, un grande amico, dice c'è pochissima attività, per cui non ne vale la pena. Guarda, oggi come oggi dice non l'avrei preso nemmeno la patente, perché non ne vale proprio la pena, un sacco di soldi spesi, un patrimonio, e poi per cui cosa per avere magre soddisfazioni. Io non lo so, perché io non le posso sapere perché non ci sono lì e per cui non posso dare un giudizio. Ma se tu mi stai dicendo così, io ti credo, perché non ho motivo di non crederci, capito Marco? Anche in VHF, vabbè, qua ogni tanto è acceso, ma non sento un granché. Poi alle volte sento delle voci che non riconosco, perché mentre anni fa uscivo in macchina con l'antenna anche veicolare, no? Per ascoltare con il ricevitore, e sentivo i soliti del grandi radioamatori di Sassa, no? C'era, vabbè, Claudio, c'era Andrea Moretta, Marco Petretto, Walter, Vittorio, i soliti grandi, no? E certe volte ti faceva compagnia ascoltare la VHF perché facevano battute, si sganciavano di risate, insomma, era divertente anche da ascoltare, capito? Facevano discorsi, sì, anche seri, ma spesso si divertivano anche loro in radio, ecco. Ed era bello anche perché si ascoltava. Adesso non c'è più mordente, capito? Non lo so. Poi sento anche voci che non so chi siano, non c'è più quella verve, ti parlo anche almeno di 10 anni fa, quando ancora portavo il ricevitorino in macchina con l'antenna a fase magnetica, l'antenna più o meno grande, che io ne ho di tutti i tipi. E va bene, è così, è. Certo, il baracchino è proprio ridotto ai minimi termini, d'altronde, come dicevo io, Giulio, la 27 è obsoleta, il che, vabbè, non vuol dire nulla, però amatori non ce ne sono più di questa banda, capito? Anzi, molta gente ce l'ha a casa, ma è sempre chiuso, coperto, spento, allora è come non averne. È peccato. Sì, vabbè, frequenza obsoleta sicuramente, però io penso che addirittura le bande radioamatoriali siano anche quelle più vecchie della 27, più obsolete della 27, penso un po', perché da quando mondo è mondo i radioamatori sono sempre esistiti, a differenza dei CB che non sono venuti dopo, perlomeno penso che siano venuti dopo, non lo so a che anno risalgono i primissimi CB, perlomeno qui a Sassari. Poi però i radioamatori già esistevano da sempre, no, non è che non esistevano, per cui più vecchia di quella la frequenza, no? Non credo che possa essere la CB nella maniera più assoluta, almeno questo qui è il mio pensiero. Poi se mi sto sbagliando può darsi anche, non lo so, però è così. E vabbè, comunque, bene o male, comunque 50 anni, 52 anni me ne sono passati, me ne sono goduti col baracchino, e anche di più di 52 e mezzo, perché 1972, febbraio, siamo a luglio, siamo del 24, e sono 52 anni e mezzo praticamente. Io penso che è più grande il mio baracchino che mia figlia, per dire, no? Tanto mi ha dato un'idea, infatti anche l'altro giorno gli ho fatto quella battuta, lo sai che questo baracchino è più grande di te? E io lo so, che io l'ho conosciuto da quando ero bambina piccolina, e infatti, capito? Poi di antenne, io ogni volta mi sto a corteggiare per usi futuri. Questa antenna, guarda, somiglia molto alla Venom, è sostanzialmente una Venom, però alla base ha un trasformatore, un toroide, no? Un adattatore di impedenza, e sono quelle antenne HF della Sigma Eurocom, è come la stessa marca della Venom, poi della Sigma Eurocom, e ci sono due versioni, c'è quella in alluminio, proprio identica alla Venom, sempre con questo adattatore alla base, che ti permette di ascoltare tutte le bande amatoriali HF, Poi vabbè, se vuoi trasmettere ci vuole per chi ha abilitato la, l'accordatore da l'impedenza da. Quello sì, perché è un po' troppo larga banda e quindi certo la resa sarà un po' risicata. Non è altro che una canna da pesca col toroide alla base, mi per farci le HF. Poi c'è un modello sempre della stessa ditta che è in fibra di vetro bianca ed è mi pare in tre sezioni solo, è un po' più corta, tre sezioni, cioè, le sezioni si adattano, si avvitano l'una con l'altra ed è in fibra di vetro bianca, solo che quella, vabbè, penso sempre che la fibra di vetro dopo tanti anni cominci a disintegrarsi, anche se la lasci in casa senza usarla e coso, e cominci a fare quegli aghetti che ti pungono, che sembrano spine di fico d'India, allora non so, poi costa anche di più, mentre quella in alluminio costa meno. Mi sarebbe piaciuto avere quell'antenna lì per usi futuri, non si sa mai. Tanto costano, oddio, non poco, relativamente poco, dai. E non so se ce l'hai presente. Sì, l'avevo conosciuto anch'io negli anni passati, quello da Barramobile, però per quanto riguarda ad esempio quella, la base come la Game Master, ti posso garantire che non è una fibra di vetro come quella, non si creano gli spillini, per così dire, nell'antenna stessa, perché io ce l'ho già diversi anni, ce l'ho prima ancora di avercela io, ce l'aveva Sandro, questa era di Sandro di Porto Torres, era tenuta un po' lui anche, io ce l'ho già parecchi anni, quando l'avevo tirata giù devo dire che era liscia come quando l'avevo montata, per cui non c'è quel deterioramento della fibra di vetro in quell'antenna, perlomeno parlando della Game Master, poi altre antenne non lo so. Sì, parlando di antenne invece, quelle della Barramobile le avevo avute anch'io negli anni passati, che poi si deteriorava la fibra di vetro, si deteriorava e tu la toccavi e sembrava che ci entrassero delle spine nelle mani, proprio perché aveva quel problema lì la fibra di vetro. Ma questa della Game Master no, questa è proprio liscia, come l'alluminio praticamente, non c'è differenza. L'unico problema è che quando soffiamento si piega, è una meraviglia, però va benissimo. E devo dire, per me è l'antenna della 27 migliore in assoluto, indipendentemente dal fatto che ci possono essere antenne che hanno più potenza o meno, eccetera. Però questa per me è la migliore, perché è leggera, non ha radiale, facile da piazzare, non devi tarare niente, perché appena che la pronta, la piazza è già pronta, per cui è anche molto duratura, io la vedo così. Vai Marco. Cappa, eccomi, mentre parlavi ero andato nell'altra camera a prendere lo smartphone. Allora, questa antenna di cui ti parlavo è la Sigma Eurocom, antenna verticale da base HF, si chiama modello X80, operante da 80 metri ai 6 metri. Praticamente è uno stilo da 6 metri in alluminio, no? Con li unisci tramite le fascette, no? Le fascette stringi tubo. Sì, altezza 6 metri. Praticamente uno dice, vabbè, se te la fai in casa spendi meno, però io non avendo manualità e no, l'avrei voluta tenere da parte per eventuali emergenze, così l'avrei voluta avere comunque. Ne costa sui, magari non costa poco, costa, vabbè, perché te la danno pronta, vediamo, costa 145 euro o giù di lì, dai. Invece quella in vetroresina costa molto di più, Se vogliamo ha le sue pecche, perché se c'è molto vento rischia che ti spacca quelle boccolette di metallo dove ci sono le viti che uniscono i vari elementi, non sono come delle boccolette di metallo dove si infila poi lo stelo in vetroresina, e lì ci sono stati casi in cui si spaccava proprio una fessura verticale e poi rischiavi che ti si smontava l'antenna. Vediamo se trovo il prezzo di quell'altra. HF360 si chiama quella in vetroresina. Addirittura hanno fatto la versione col toroide maggiorato per avere alte potenze, perché qualcuno si lamentava che con queste antenne qua potevi fare 100 watt solo, no? O giù di lì. Allora ne hanno fatto uno col toroide blindato, arriva fino a 500 watt, no, 1 kilowatt, fino a 1 kilowatt. Sì, sono quelle antenne che spusti lo stilo e ti dà le varie frequenze, sì, fino agli 80 bit. No, è una comodità perché puoi ascoltare su tutte le bande che vuoi. Io mi ricordo, una volta c'era un amico, c'era a quadrato, e ce l'aveva lui messa sulla capota dell'antenna e tranquillamente parlava in 40 metri tranquillamente con quel tipo di antenna, che appunto si utilizzava il punto della frequenza dei 40 metri, perché aveva, ripeto, partiva da 27 sino agli 80 metri, dai. E abbiamo fatto un lungo QSO dalla macchina, così, in aperta piazza lì al quadrato. Eravamo 5-6 persone, tra cui questo era un radioamatore. Radioamatore che adesso non mi ricordo come si chiama, come si chiamasse, che poi non ne ha più fatto. Guarda che si interessava anche di cosa si interessava, un po' di elettronica, che poi è passato per fare il vigile, il guardiano, il vigile notturno o qualcosa del genere. Che aveva un laboratorio, perlomeno non so se era un laboratorio o un punto d'appoggio lì dalle sue parti, lì nell'Embianizza, in quelle parti lì, non mi ricordo come si chiamava quell'amico lì, capito, che abitava credo a Sassa di Due. Il laboratorio dalle mie parti io sentivo nominare sempre questo Beta Verde, l'ho sentito nominare da tutti, ma io mi sto cercando di scervellarmi, non riesco a ricordare perché ero ragazzino e poi non ci avevamo mai parlato in 27, può essere che sia Beta Verde. No, Beta Verde era in via di San Francesco, era la gradinata della chiesa di Cappuccini, era proprio lì, a pochi metri dalla gradinata per salire nella piazza della chiesa di Cappuccini. Beta Verde era lì, quella lì era un radiotecnico di trasmettitori eccetera, ma faceva comunque questi lavori anche. No, questo ce l'aveva di fronte a Scarpa, lì vicino, so che era lì dove c'è Scarpa, il negozio di Scarpa, di fronte so che aveva, non so se era un laboratorio oppure era un punto d'appoggio che avesse lì, e faceva dei laboretti lì. Guarda che poi è diventato, credo, un agente di custodia o qualcosa del genere, no, di preciso non te lo so dire. E abitava lui verso Sassa di Due, lì Budi, quella zona lì, dai, quelle case che hanno fatto sulle luci gialle, eccetera, eccetera, da quelle parti lì. Ah, guarda, io